Con il mio ego, gemelle, le mie sorelle, caramelle, opere d'arte, best seller, Hells Angels, che selle. Mi hanno detto, baby, ne vedrai di belle. Ho risposto, non serve che mi dici niente. Butta fuori alla porta in attacco, in tiro col tacco di tacco. Rudy Feller, entriamo al degrado, l'ex sul divano col drink anacquato. Ho la pelle d'oca, lei è una cappelle, due baffi così, bella Tom Selleck. Faccio finta di niente, ma che pacco di HL. Se gli sguardi potessero uccidere, sarei morta da un tot al primo shot. A prayer for the dummies dancing at the disco, with clones like machines under a hypno syndrome, everybody drunk of hateness. Alcohol full of, full of, full of fakeness. Full of fakeness. Full of fakeness. Full of fakeness. Odi, sono lo specchio e io ti amo per dispetto. Tu stai fuori, torna presto. La tua opinione, chi te l'ha chiesta? Stacco gli occhi di dosso e li metto nel cocktail adesso. Presi male nel posto, come Tina Cipollari, no Maria, io esco. È guerra aperta, amiche in allerta, pronti partenza, a mio tre si twerka. Sì che le scuoto, scatta una foto, le chiappe moto, pare un terremoto. Volano unghie finte, extension, e verso la fine pari Marilyn Manson. Siamo nel party, che ore sono? Le sei Bacardi, abbandono. A prayer for the dummies dancing at the disco, with clones like machines under a hypno syndrome, everybody drunk of hateness. Alcohol full of, full of, full of fakeness. Full of fakeness. Full of fakeness. Full of fake, no. Machines under a hypno syndrome, everybody drunk of hateness. I call full of fakeness. Animatronics, people getting bionic. Spending the time thinking about a way to spend the money. But honey, honey, honey, you ain't sweet like honey. You more bitter than a coffee with a sugar honey. I'm trying to be something that you know ready to be, because the originality is just for people like me. Put your fucking bitches into the black party. Tell them to shake the body, cause every fucking body wanna sing. Every fucking body wanna